Grande Marco Roma. Grande Marco, io vorrei un vocale per l'inizio di settembre. Mi raccomando, Marco, ritorna tra noi. Infatti, io rimetto la musica di sottofondo. Perfetto, hai rischiacciato di nuovo qua. Sì, ho schiacciato quello lì, ho alzato CD1 e adesso parla tu, visto che sei in regia. Se sono in regia mi verrebbe voglia di farti delle domande. Cosa hai fatto quest'estate? Io cosa ho fatto quest'estate? Sono andato a Kassel. Non so se... perché sta scomparendo tutto? Non so se la mia cuffia... tu senti bene? Sì, io sento. Vuoi provare la mia cuffia? Io sento abbastanza bene. Ok. Non sento neanche gracchiare. La musica di sottofondo la senti? C'è. Vada Dio. Ah, vada Dio, allora vada sono Dio. Io. Allora parla tu che io vado a cambiare cuffie. Ok, d'accordo. Allora, sei stato a Kassel. Mi parlo e mi rispondo da sola. Allora, io forse metterei un nuovo pezzo mentre tu sei di là e mi sta venendo l'ansia di essere da sola in regia. E do il benvenuto, il bentornato a tutti gli ascoltatori di Coxo Spaziale, sperando che abbiate avuto un agosto splendido. E siamo pronti per riniziare con chissà che puntata è questa, Stefano, la 400 e qualcosa. Sto facendo un po' di danni in regia. Metto un pezzo e ci sentiamo dopo. Sometimes I wonder if I should be mad. sei? A volte torna, non torna? Torna, è finita. Per fortuna sei tornato nella regia con me, perché stavo già andando in grande ansia a gestire tutta la cosa da sola. E io ho portato dei pezzi che sono dedicati a degli amici speciali per augurargli un buon inizio dell'anno, perché a settembre è un po' un capodanno, no? È un po' un capodanno che inizia, per cui che inizi con tutte le massime e buonissime energie. Abbiamo appena ascoltato Florence and the Machine, la canzone Free, e siamo su Radio Città Fujiko la 400 e qualcosa di Coxo Spaziale. Non è vero, non sai che non so che puntata siamo? Ci siamo un po' persi il numero, però lo scoprirete domani. Eravamo in vacanza, allora. Lo scoprirete domani su coxospaziale.blogspot.com. Brava. Grande. Se volete mandarci un WhatsApp cantato o scritto, il telefono della diretta è 333 180 94 94, che però non possiamo tirare sul telefono in diretta. No, per cui potete WhatsApp. Lasciarci o un cantato o uno scritto o quello che vuoi. Io comunque continuo a sentire gracchiare dappertutto, ma fingo indifferenza e mi fido che si sentirà benissimo. Io sento bene, spero anche le persone che sono sintonizzate. Questo è Chopin siamo riusciti a molto relax a postare la foto vintage di me e te in regia. Bene, e dunque in questa puntata non abbiamo niente da raccontarci. Sei abbronzatissima anche tu. Sei abbronzato abbastanza. Dove sei stato? Stavi dicendo, sei stato a Kassel, hai fatto sono anche stato uno a Kassel, speciale. Però anzi mi sono abbronzato anche lì a Kassel. Sì, se vai su coxospaziale.blogspot.com trovi lo speciale Documenta, questa mostra che appunto succede ogni 5 anni a Kassel in Francia, e fra l'altro c'era un gran sole, un gran caldo, per cui mi sono abbronzato anche ad andare tra un posto e l'altro. Come sei stato, in macchina? Sì, in macchina con un curatore che saluto, Massimo Marchetti. Ciao Massimo. E altri artisti e curatori. Abbiamo fatto un gruppetto e siamo andati. Molto bella. Quanti giorni avete fatto lì? Siamo stati su 3 giorni, cioè 3 giorni pieni abbiamo visitato. Sì, puoi abbassare, fai come se fosse il tuo mixer. Non tranciarmi le mani. No, figurati. Sì, no, perché in effetti io ho queste cuffie che sento abbastanza piano. Però tu senti bene, per cui è giusto che i volumi li scegli tu. E poi sono stato in Abruzzo, a Francavilla al Mare, com'è che si chiama quell'altro posto, Ripari di Giobbe, vicino a sotto Ortona. Dalle tue parti, giusto? No, dalle parti di tua moglie. Dalle parti di mia moglie, sì, perché però tu sei non bolognese. Non vogliamo dare dati più grafici. Esatto, non vogliamo raccontare troppe cose personali, anche perché non interessano a nessuno, anzi. Il nostro direttore, che salutiamo perché fra l'altro lui è in vacanza in questo momento, e una volta ci ha cazziato a me e Fedra perché raccontavamo solo i fatti nostri in una puntata allora ha detto no, non bisogna essere autobiografici, bisogna sempre parlare di qualcos'altro. Giusto, infatti ci sta questo grande insegnamento. Però allora Kassel invece, hai fatto questo speciale che si può sentire, ascoltare sul blog. Sì, certo. Perfetto. E poi in quella puntata lì c'era anche Lorenzo Balbi, che salutiamo, che anche lui è tornato dalle vacanze giusto per farci cazzi negli altri. Vabbè, una puntata si può, il nostro direttore ci perdonerà. Che ci ricordava che la mostra di Sean Scully è aperta per tutta l'estate, per cui il Mambo continua a essere aperto negli orari, aspetta che abbasso, mi comincia a dare fastidio anche a me Chopin, negli orari normali, e la mostra, e appunto ci ha raccontato il come mai dovremmo andare a vedere la mostra di Sean Scully, che è un fantastico. Io devo recuperare l'ascolto e domani me l'ascolterò. Esatto. E infatti Bologna non si è chiusa durante l'estate. Io manco da più di un mese, ma mi hanno raccontato che tra il cinema sotto le stelle e le varie mostre in giro c'è stato molto giro, nonostante gli oltre 40 gradi di caldo. Infatti. C'è stato molto giro, molta attività. Sono andato a vedere una mostra organizzata da Art Motel, che era in questo spazio nuovo in via Petroni. Ok, come si chiama lo spazio? Lo spazio è uno spazio gestito dalla Fondazione Rusconi. Ah, certo. Che dà a dei curatori o a degli altri spazi, perché la prima mostra era stata organizzata dal Museo Temporaneo Navile. Okay, era una sì. collettiva dove c'era anche Chiara Pergola, mi sa ricordo. Che ne abbiamo parlato. Sì, sì, e invece se non sbaglio ai primi d'agosto sono andato, forse era l'ultima settimana di luglio, sono andato a vedere questa collettiva curata da Atmotel, che è molto, molto carina, bella. Ma è uno spazio che rimane aperto oppure Fondazione Rusconi apre questi spazi spot? Ecco, mi fai una domanda a cui non sono sicuro della risposta, per cui non lo so. Andremo a cercare. Se non sbaglio avevano annunciato, però alla conferenza stampa non sono riuscito ad andare, però se non sbaglio avevano annunciato una sorta di programma annuale in cui invitavano appunto 6 o 7, 5 o 6 spazi espositivi, certo, che appunto venivano ospitati da questo posto in via Petroni. Super, super, super, super. Ascoltiamo un altro pezzo. Lo metto? Vai. Pronunci tu il titolo. Jim Croce, I Got a Name, I Got a Name. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whelp will and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Bravo. Dicevo, l'ultimo valzer di Dalida ho trovato nella mia fantastica borsa. Stai tirando fuori una chicchetta, perché qua c'è un bellissimo giradischi. Ho detto dai, mettiamo un bel vinile. E Stefano, esatto, ha sempre un vinile con sé nella borsa. Perché non si sa mai, può sempre essere utile. Mettiamolo di brutto. Io continuo a sentire del gracchiamento, però. Anche ogni tanto quando mi muovo. Allora, comunque. Innanzitutto bisogna accendere il mixer. Perfetto. Che è qua di dietro, power. Io ogni tanto alzo il volume della musica di sottofondo. Ah, quando... okay. Eccolo qua. Strana sta musica di sottofondo. Poi l'ultimo valzer di Dalida. Poi dobbiamo mettere a on. Ok, 45 giri. Poi. È normale che lampeggi tutto lì? Non lo so. Stabilizzato. Non saprei. E poi dunque cosa si fa? Si alza la testina e... ah no, però bisogna farlo partire. Ok. Allora, ah no, ecco, perché poi c'è anche questo mixer qua che tu devi mettere a 2, perché questo è il 2, certo, e quello è l'1. Poi invece questo è alto. E Stefano sta facendo veramente delle performance super, okay, fighe. Adesso questo lo alziamo del tutto e poi andiamo ad alzare di là a vedere se parte. Qui abbasso. Dov'è? AUX, PC Hospital, console. Eccola. Wow. Grazie. Io sto cercando di convincermi che vuoi. Solo da un lato della cuffia. Non è cambiato niente tra noi. L'ultimo valzer con te. Sei contenta per avere l'ultimo valzer di Davide? Sì, tantissimo, mi piace di brutto. Senta, ogni tanto devi... però non avevo da pulirlo, come si sente, no? Si sente, questa musica ci accompagna veramente a rientrare con un lunedì 22 agosto dalle ferie. Occhio che fra un po' ci sono le pubblicità. Partire in automatico? No, dobbiamo partire noi. Ok. Facciamo... assomiglia un po' alla sigla di Lupin, che però tu non sai che cosa sia. Sì, no, Lupin mi piaceva tantissimo. Ah, ok. È incorreggibile. Tra l'altro Fujiko, di Radio Città Fujiko, ma viene da... cioè è proprio la Fujiko di Lupin. Infatti. È abbastanza spaventoso questo pezzo. No, è stupendo. Io vorrei sapere cosa... chi te l'ha regalato questo pezzo, a chi lo dedichiamo? Ah, no, questo lo dedichiamo a Marco Roma. Per chiamarlo CD, ma è un vinile a 45 giri, sporco, come sentite. In realtà era di mia nonna Angela, che aveva un mangia dischi piccolino, e quando sentiva Sanremo una canzone che gli piaceva se lo prendeva, se lo comprava. Era una storia super super poetica. Anche la tramontana di Antoine da qualche parte. Fighissimo, mangia dischi, cioè lo inseriva all'interno, non come questo. Esatto, quindi. No, era tipo una scatoletta che aveva una fessura, certo, tipo CD-ROM, però giga. Esatto. Tu infilavi e poi cliccavi tipo play. Fantastica, allora la dedichiamo a nonna Angela questo pezzone. È già finito, purtroppo. Ti ho passato il... Cosa faccio? Niente, fai niente. Alzo, metto un altro pezzo. Metti un altro pezzo. Prima della pubblicità ci sta. Abbiamo 4 minuti. Vuoi mettere un altro pezzo? Sì, questo è uno dei miei pezzi preferiti. Allora ti rialzo. Intanto ti abbasso la console, così non abbiamo più questo gracchiamento che era un po' fastidioso. Mi ero un po' affezionata come al motore degli aeroplani. Esatto, per cui io ti alzo di nuovo il PC, ti abbasso la musica di sottofondo, che fra l'altro non si sentiva quasi per niente. E ci vai. Ascoltiamo Crazy Belle, che in teoria si leggerebbe Crazy. Crazy Belle. Perché sei francese. Ah, è belle francese. Oui. Ok. Yeah. Yeah. Hey. On entend même le plancher du studio, my nigga, for real. Mais la vie est belle. On est le 20 septembre. 3h du matin. J'entends que Neymar s'embrouille avec Cavani. Que les anges sont partis en vacances. Tellement de choses à dire, tellement de prose, mais pour l'instant je suis posé, je suis cosy. Je prépare mon album, je suis assis, ne te fais pas de bill, ne te fais pas de Cosby. Je me balade sur Twitter, j'aperçois mon prénom et comme Alpha One je réponds si si. Je suis dans la cabine, je bois un smoothie, je regarde le ciel, je me dis merci, je suis béni. Je parle de moi car je connais pas. pas trop les autres. Et puis à quoi ça sert, mis à part provoquer ce qu'on appelle guerre. Je préfère les plantes en dehors que dans serre. Rabaisser mon prochain, je sais plus comment faire. L'élever vers le haut, c'est ma mission sur terre. Yeah. Santé, hey. Le temps c'est de l'argent, mais céder ne coûte vraiment pas cher. Hey, hey. Si tu penses que t'as une vie de merde, écoute ce son et dis-toi que la vie est belle, faut rire. Je me dis que la vie est belle, skinny qui papa. Pas de ce que j'ai pas, et je parle encore moins de ce que j'ai. Mais quelques petits bouts de papier envoient plusieurs d'entre vous voyager. Écoute ma voix avant de dormir ou avant de voir la femme que tu vas sentir. Je vous cache pas que je viens de le faire, elle sent bon, je vais pas vous mentir. Je rêve de faire un film et souvent mes rêves deviennent réalité. On vit qu'une fois donc je me suis fait à l'idée qu'à part la mort personne pouvait m'arrêter. Yeah. J'allume une clope, mon verre je sirote. Calvin met les wok, je mets les wok. J'suis pas dans le rap game, j'suis posé chez moi, les deux mains dans le froc. Yeah, yeah, yeah. Wow, j'me dis que la vie est belle. Et si tu penses que personne t'aime, for real, c'est que tu me connais pas, yeah, yeah, yeah. Wow, and the shit goes skidibi pop up. Coxo spaziale. La nostra più grande soddisfazione è la fiducia dimostrata. Eccoci, bellissimo un pezzo di Crisi e bellissime le pubblicità di Radio Città Fujiko. Assolutamente. Siamo ritornati a Coxo Spaziale, in cui incredibilmente stai facendo la regia. In cui incredibilmente Stefano W. Pasquini mi sta insegnando a fare regia, per cui io chiedo a tutte le persone che stanno ascoltando dei difetti di proseguire ad occhi chiusi, perdonando questi momenti di apprendimento. Ma sì, tanto posso dirlo. Sono tutti in vacanza, non ti preoccupare. Esatto, perfetto. Attenzione che sta per partire questo e hai lasciato un... Forse lo lasciamo andare. Lasciamo andare. Fantastico. Gran pezzo. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Better recognize your brothers. E rieccoci a parlare di arte contemporanea su Coxo Spaziale. Yeah. Stavo guardando cos'era successo ultimamente su Exhibart e su Art Tribune e ho scoperto che è morta Jane McAdam Freud, l'artista concettuale figlia di Lucian Freud. Caspita. Ma se è morta lei che ha 64 anni, Lucian Freud quanti anni ha? Adesso vado su Wikipedia a vedere quanto è grande, cioè quanto è vecchio Lucian Freud, o se è morto anche lui, perché non saprei. Ci siamo persi questa notizia. Lei è mancata in questi giorni? Sì. O oggi proprio? Non lo so, in questi giorni direi. Certo. Anche perché ho solo un telefono e dunque... E anche una mano occupata perché l'altra c'è. Ah no, cavoli, è morto nel 2011. Era del 22 Lucian Freud, hai capito? Vabbè, sono... sì. Ha 90 anni. Cose... E giustamente a 90 anni aveva una figlia di 64. La figlia però era super giovane, insomma. Mm. Hai trovato qualche altra notizia carina, interessante? Che no, ci vuoi stavo dire? Guardando Art Tribune, questa monster piattaforma petrolifera che si trasforma in un grande parco pubblico. Cos'è? È partito? Era partito il pezzo dopo. Intanto abbiamo... Una Delta Airlines, no? Era della Delta questa. Ah, ok, perfetto. E si capisce che non abbiamo niente da raccontare in questa puntata di Coxo Spaziale. Non è vero, ma perché siamo tornati belli rilassati dall'estate. Esatto. Infatti io mi sono sempre chiesta se i musei e le mostre in generale siano delle alternative valide a delle vacanze che le persone fanno d'estate, ovvero... non so che concezione hai tu della vacanza in sé, ma io molto spesso le mie vacanze sono viaggiare per andare a vedere dei convegni, delle conferenze, delle mostre che mi interessano, no? Non è che sia proprio la vacanza una cosa che stacchi la spina e chiudi tutto, ma ti vai a vedere, ne approfitti per andarti a vedere qualcosa di interessante, di... una mostra. Ah certo, no? Sì, no, anche sì, no, in effetti devo dire che vabbè, a parte la mia vacanza in Abruzzo, sì, tutte le altre mie vacanze sono andato a vedere cose. Sono sempre dei viaggi progettuali fondamentalmente, è un sì. tipo di turismo secondo anche me la mia prossima vacanza che ti vedrà protagonista di Coxo Spaziale da sola. Eccoci ragazzi, attenzione. Esatto. Andrò ad Atene, a Idra, per fare una mostra, però anche a vedere un po' di cose, a vedere che cosa succede ad Atene, che è un centro d'arte contemporanea molto interessante. Fighissimo, infatti non vedremo l'ora che, anzi ci manderai dei vocali direttamente da lì quando io sarò da sola. Esatto, qui. Cosa che ho fatto anche con Fedra, una volta addirittura ho fatto un collegamento Skype da Ioannina. Con lei, sì, che ero andato in scambio Erasmus. No, stavo guardando questa Monster, la piattaforma petrolifera che si trasforma in un grande parco pubblico, articolo di Giulia Ronchi che ringraziamo su arttribune.com e dice che succede a Weston-super-Mare in Inghilterra, nella costa che si affaccia sul mare del Nord. Praticamente è una piattaforma, un'ex piattaforma petrolifera che è diventata un grande progetto di trasformazione del patrimonio industriale che permette di dotare questa località in un nuovo spettacolare punto di riferimento per l'educazione di ambito scientifico. Intanto ciò... Ma bello, ma dov'è che diciamo, dov'è che da dove si va a vedere, diciamo? Nella costa di Weston-super-Mare in Inghilterra. Ok. Questo invece è un Lufthansa. Mentre invece io c'ho Fuga per Art che ti fa i complimenti, vari svariati complimenti estetici. Per cui sì, ma se lo rimetti a posto, sì, perché no, lui sa già che sono sposata. Esatto. Ma tanto lui non ha di questi problemi, capito? Lo fa spesso e volentieri. Lo salutiamo e lo ringraziamo, così come ringraziamo Marco Roma per averci mandato un vocale in agosto prima di andare in ferie. Chissà se torna adesso. Stavo guardando questa cosa, praticamente cioè, deve ancora aprirà okay. presto ed è appunto una piattaforma, un'ex piattaforma petrolifera, evidentemente raggiungibile da terra, presumo, perché altrimenti non certo. si sa bene come funziona. Il progetto è quello di farla diventare nei prossimi X mesi. Esatto. Un punto di riferimento per l'educazione di ambito scientifico e ricreativo con focus su scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e arti. Molto bello. Al centro la celebrazione della natura e del clima, in particolare quello britannico con giardini, cascate, eccetera, eccetera. La direzione artistica è di Patrick O'Mahony e Holly Howitt, che non so chi siano. affiancati da un team multidisciplinare. Sea Monster fa parte di Unboxed Creativity, un ambizioso programma creativo del Regno Unito finanziato da 4 governi inglesi, in collaborazione con il Belfast City Council, il Creative Wales e Event Scotland. Ah, ecco, perché in effetti Weston-super-Mare, se non sbaglio, sai che non ho idea di dove sia. Sai che prima di dire una puttanata vado su Google Maps. Google Maps. Esatto. Comunque molto interessante questa cosa. Perché Weston-super-Mare secondo me è in Cornovaglia, però. Weston. Ah, è molto interessante questa cosa di riutilizzare non soltanto gli spazi urbani, ma anche per esempio le piattaforme petrolifere, perché sono già strutture estremamente anche ampie, all'interno delle quali poter fare dei progetti del genere. Mi viene in mente che... Ah beh, è attaccata a Bristol, per cui Bristol è in Inghilterra, sì. No, no, siamo in Inghilterra. In Inghilterra, vicino a Canterbury. Ok. Danno già anche un'idea di una data di così previsione di quanto dureranno questi lavori? Boh, no. Vedremo. No, cioè, siccome hanno pubblicato il progetto, giustamente Art Tribune l'ha raccontato. Mi viene in mente quell'opera fantastica di Adrian Paci, del video, in questo momento non mi ricordo il titolo, ma lo metteremo in coxospaziale blogspot.com. .com è uguale. Ti ricordi quel video fantastico in cui praticamente faceva realizzare la colonna all'interno di una nave? L'hai mai visto? No. È un'opera stupenda che ci fece vedere, fra le altre cose, Adrian. Ti manderò la registrazione di Coxo, perché ti saluto. Mm-hmm. E lui praticamente aveva ricreato la costruzione di una super colonna all'interno di una nave mercantile, potrebbe essere, o comunque una nave mega gigante. Okay. E quindi c'è questo video estremamente poetico e anche quasi anche di violento, anche perché comunque non ti immagineresti mai una situazione del genere in cui questa popolazione, che adesso so probabilmente cinesi mi sembra che fossero, non vorrei dire delle coxate, non mi guardare perché non ho visto il video, lo ricreavano, cioè ricreavano la colonna durante, nel corso del tragitto. Ma che cosa vuol dire ricreare una colonna? Cioè, evidentemente seguivano un disegno, quindi creavano, cioè costruivano, gli veniva commissionata una colonna da esporre. Ah, ok. Ma che materiale? Ho tante informazioni che in questo momento mi mancano, okay. Per cui non vorrei dire delle cose. No, anche però... perché se poi devi mandare la registrazione a Adrian Paci, dai, sarebbe meglio. Vabbè, ma è giusto comunque, così. Dai. Comunque l'ho pensato, perché quando diretta. Ho pensato alla piattaforma petrolifera, ho pensato a quante cose, insomma, si possono creare anche all'interno di queste situazioni. Poi cos'è la? Ci sono delle acque che sono senza nazionalità, può essere, giusto? Beh, sono acque internazionali, esatto, certo. Le acque internazionali. Se non sbaglio, tipo 12 miglia dalla costa o qualcosa del genere. Esatto, che è un po' la storia dell'Isola delle Rose, per esempio. Sì, vero? Certo, infatti. È molto interessante questa cosa. E comunque tutto questo per sottolineare, come al solito, come il governo britannico sia molto più attento alla cultura che non il governo italiano. Certo. La Brexit e tutto quanto. Cioè, in realtà hanno fatto molti tagli alla cultura in Inghilterra negli ultimi anni, però comunque sono sempre messi molto, molto più in alto di noi. Ma ascoltiamoci un altro pezzo. Lo metto. Quello da 7 minuti e questo 50. Questo è da 7 minuti e 56, ascoltiamo l'inizio. Ok. Quando ci annoiamo. abbassarlo un po', sfumarlo mentre noi parliamo. Sì, esatto, lo abbassi un po' così, tipo così, che si sente ancora, però perfetto, ci sentiamo anche noi. Bello questo pezzo, molto carino. Come si chiama? Lo Zambo. È molto carino anche il video, veramente allegro. Io nel frattempo mi sono andata a guardare un po' di informazioni per controllare quello che stavo dicendo, per cui era esattamente quello che mi ricordavo. Il video e l'opera si chiama The Column. Questo è un delta, intanto. Esatto, noi abbiamo la finestra aperta perché sennò moriamo di caldo all'interno dello studio di Radio Città Fujiko. Ha commissionato a un laboratorio marmista, Adrian Pazzi, di Pechino, una colonna classica in stile corinzio. Se l'è fatta spedire via nave e l'ha esposta in una retrospettiva itinerante chiamata Vite in transito tra Francia, Italia e Canada, assieme a un film che ritrae gli operai durante le fasi della lavorazione, quindi dall'estrazione del blocco di pietra alla cava fino alla rifinitura eseguita a bordo di una nave speciale, di una speciale nave officina, che il febbraio scorso, si sta parlando del 2013-2014, ha sbarcato la colonna ultimata in Europa per la prima tappa della mostra al Jeu de Pomme di Parigi. Infatti era là che l'avevo vista. E poi al PAC di Milano e dal 6 febbraio al 20 aprile al Musée d'Art Contemporain di Montréal. La francese. Ah oui. Désolé. Oppure Montréal. Fuga per Art, ovvero Gifo, non vuole mandarci un vocale. Dai Gifo, scusami. Gli ho chiesto, ma non ce lo manda. Invece si saluta Radio Peng, che salutiamo anche noi. Naturalmente sì. la nostra radio, come radio si chiama? Sorella. Radio sorella che proietta Coxo Spaziale in giro per tutto il mondo. Super. Gifo sarebbe Oscar, che ha un sacco di nomi. Okay. Si chiama Gifo Fuga per Art oppure Oscar Moroni. Ok, stupendo. Nessuno sa il suo vero nome o la sua vera faccia. Ha mai mandato vocali? Una volta è venuto in studio. Grande. Dai, allora mandaci un vocale anche tu, che lo trasmettiamo in onda al 333-1809-494, se vuoi. Sta arrivando un Ryanair, questo, In effetti a quest'ora ne passano, Ci abbiamo tipo dalle 7:30 alle 7:50 un sacco di motore di sottofondo. Sì, ma adesso fra un po' potremo di nuovo chiudere la finestra e fare delle trasmissioni come si deve. Sì, perché ci aspetterà un nuovo inverno. Fra l'altro possiamo anticipare che il nostro nuovo... Possiamo anticipare. Lo possiamo dire? Che da... non sappiamo ancora quando, dalla nuova stagione. Dalla nuova stagione saremo in onda dalle 20 alle 21. Wow, siamo stati promossi. Bene, infatti è una specie di promozione questa, mi sembra. È una specie di promozione, esatto. Per cui chi ci ascoltava in tangenziale, bloccato in tangenziale, ahimè ci dovrà ascoltare da casa mentre prepara la cena. Esatto. Mentre si stappa un buon vino e prepara qualche cena, gli diamo qualche news. Che dici? Comunque è lunghissima sta canzone, cioè sì, praticamente è diventata la nostra musica di sottofondo. Ci sta però, dai, no? Ormai è una cosa che puoi fare quando non sai più cosa dire. Poi i DJ degli anni 80, no? Fantastico. Parli un po' e poi dopo. E poi parli di nuovo. Stupendo, mi piace un sacco. Come si faceva quando si giocava con il... Ma tu l'hai mai fatto una puntata completamente da solo? Sì, più di una. Grande. Sì. In realtà da solo qui dentro in studio ne ho fatte solo due in 10 anni. Okay. Per cui non sono tante. No, e l'ultima mi sa che è stata quella volta che tu non venivi, non c'eri, qualche mese fa l'ho fatto. Cioè forse anche un mese fa. Grande, è vero. È bello comunque fare una puntata da solo, cioè da solo nel senso che con gli ospiti ne ho fatte un sacco, ma da solo senza ospiti ne ho fatte due. Bello, sì. ci sta. Ecco, adesso vedi? Hai fatto stop. Questa è la musica di sottofondo che è improvvisamente riapparsa. Nel frattempo Radio Peng ti ha mandato qualche notizia? Mi ha augurato buona serata. Ciao Radio Peng, grazie mille. Anche Radio Peng, mi piacerebbe sentire qualche vocale di Radio Peng. Ah, ok, Radio Peng, mandaci dei vocali. Sì, sarebbe carino. E se non sbaglio il sito è www.radiopeng.com. E lo possiamo ripetere che ci ascoltano dal Virginia, giusto? Sì, dalla Virginia. Sì, ma è una web radio, per cui ci ascoltano, certo, da tutto sempre, il mondo. Da tutto il mondo. Come fanno del resto andando su radiocittafugico.it e cliccando su Ascolta la diretta. Fantastico. Che adesso funziona anche per gli iPhone, perché una volta se tu cliccavi con l'iPhone non andava, invece adesso va. Sì, ho visto. Io una volta l'ho fatto. Mentre non c'ero, c'era qua un ospite. Che presentava, ho ascoltato, insomma, vi ho ascoltato direttamente dal cellulare, quindi è una cosa di qualche mese, forse ci sta, va bene. Ok. Niente, che dici? Salutiamo il nostro direttore. Esatto. Che ci saluta. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Che è Liberi Liberi di Vasco Rossi. No, non cliccare, stop. Ok. Perché è già partita. Sei a posto, dobbiamo solo salutare. E allora buon inizio dell'anno così. Liberi, io ero liberi. Mia da Schios PA. E io Stefano W. Pasquini. E questo era Coxo Spaziale. Ci risentiamo lunedì prossimo. A lunedì? È già settembre, lunedì prossimo, no? Forse. Come forse, no? Non può essere già settembre. Sta arrivando. Oggi? 22. No, allora 29. No, è il 29. Dai, okay. Fantastico. L'ultimo di agosto. Ciao Mia, buona serata. Ciao Stefano, buona settimana. Ciao. Sai, sarei rimasto così. Sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato, se fosse stato, ma non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui, perché dica anche se soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa, che cosa sei. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cos'è stato? Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere che sei soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato. Soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. Siamo poi però liberi da che cosa, chissà cos'è, chissà cos'è. È la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è.